lo scrive per ragazzi. E questa era Susanna Tamaro, ora in libreria con Il Grande Albero, pubblicato da Salani. E prima di chiudere vi segnalo un appuntamento che ci sarà a Milano sabato 28 novembre alla Triennale. Si chiama Book Jockey Day ed è una giornata dedicata alle cover, dalla musica al cinema, ma, ed è qui la novità, anche alla letteratura. Personaggi noti come Vinicio Capossela giocheranno a riscrivere brani classici della letteratura, cosa che però potranno fare anche i primi 250 iscritti. In palio ci sono due bike, cioè biciclette artistiche costruite con materiale riciclato. L'iniziativa si ripeterà a Roma e a Venezia. Per iscriversi e per le informazioni www.letteraturarinnovabile.com. Anche per oggi è tutto. Vi ricordo che se volete ascoltare questa o altre puntate dell'archivio del Cacciatore di Libri, l'indirizzo è www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.